Jerry Bodine. Hello, this is Jerry Audio. Audio 12345. Audio 12345. Hello, radio audio. Watch your 34. Radio audio. Whoa, whoa, whoa, whoa. Ciao, Antonio. Oui, ciao. Audio 123. Adesso fondo scala quasi, il tuo corrodone. Sì, questi sono americani, mi Antonio. Immagina quanti watt stanno... La senti la matracca? Cazzo, con quel forse. Intanto salutare, intanto che sto uscendo, facciamo un giro qua. Ok, buon proseguimento di serata, se capita sentiamo più tardi, ciao. Bene, ho fatto una modifica, ho fatto bene, arrivo adesso. Che modifica? Siccome c'è uno spezzone di merda che non mi piace, ma ho cambiato lo spezzone, te l'ho fatto con un capo serio. Ne ho uno brutto io, infatti non lo uso mai, uno spezzone che avevo richiesto già pronto da Media Globe, no? Però non dico io, proprio fatto in fretta e furia con la massa che balla, infatti poi me lo rifaccio tutto io bene, con la calza bella presa dalla vite, bella bloccata, cioè fatto proprio tipo cipitoni con lo spezzone. Probabilmente pronti non ne avevano e l'hanno fatto in fretta e furia, ma troppo in fretta e troppo in furia, capito? Va bene, ciao tu, ci sentiamo, un proseguimento, nel caso più tardi, ciao. Andare, no, te volevo chiedere più alto di segnale, perché a me mi sembra che stia pompando meglio. Ok, dai, ci sentiamo. E ya, ciao a tutti, ciao. Good news on the top side of Florida, stand by. Top side of Florida, stand by. Good news downtown, Lake Florida, stand by. Stand by, stand by. Fatto era un casino, era qua. Invece c'è un bel forte questa radio, perché mi dà un bel picchi di modulazione. Ma va, chi non si sente? Vabbè, io non mi ascolto, però penso che sia forte come radio. Fortissima. Cava cava. E tu a dire che andava. Ah, che la radio mia è buona, vero? E a voi. Ciao, gli ho cambiato la batteria ieri, gli ho fatto ieri. Perché quando è scarica ti fa quel lavoro lì, capito? Ogni tanto. Eppure era più controllata, avrai andata bene. Beh, controllata come? Col tester? No, c'ho un apparecchio, c'ho che lo metti ti dice se carica o no. Allora c'è cioè, io, le misurate ed erano 4,5 di volt da 9, capito? Poi ne ho misurato un'altra ed era 9, allora ci può chiusa nuova. No, quella lì era bella piena, era, non so, mi sembrava strana la batteria. No, adesso mi ho messo le cuffie e ti ascolto meglio. La modulazione è bella preamplificata qua, e va benissimo. Preamplifica. Invece mi dico ogni tanto devo regolare qua a vedere se c'ho a posto andava bene e a voglia a me io mi vendevo una birretta, va, usato in sala perché me l'ho messo in sala finalmente perché c'è tutta la camera che non ci fa niente l'apparecchio. Ah, in sala te l'hai trasportato? Yes. Fatto bene. Ma infatti io ce l'ho prenuta, mi sono un po' di cameretta da bui. No, me l'ho messo qua in sala e la fanno a pure. Ma infatti, è fatto bene. Certo, è cosa? Anda a vedere. Ma no, perché avevo in camera d'ora, no, ho fatto il magazzino. Ma infatti lo devi mettere dove lo usi di più, capito? No, vabbè, in sala no, non è che ci troviamo molto. Ho detto, capo, me lo metto in sala, mi imbonzo per la tua chiacchierata. Ma infatti, vabbè, io ce l'ho dalla camera, ma lo posso trasportare. Ne prendo uno e me lo porto là, capito? No, non ci sono problemi. Per cui fa tutte e due, Ma non ve ne sciumi, no? Hai tanto male, bravo. Il canale dei morti è questo, Io ce la sto mettendo tutta per cercare di entrare la gente. Voi. E c'è un bel di gente che mi ascolta, sicuramente. Può essere. Dovremmo sarebbero entrati. Non si intendi, no, non si intendi. E cosa, bravo? Hai giudito, non si intendi. A voi che si intendi. Andiamo dove andiamo? Oggi veramente la Giuisa che gli dava dalla parte all'altra. Ma non gli fa niente. Se è accorata bene non ne ha problemi. Non ne ha, no. Ha fatto un bel lavoro e va bene così. Anche la mia stava sventolando forte. Però ha giudito già, che già tieni. No, non tanto forte, la mamma era sventolando di più. Vabbè, dico, il vento un po' te la muove, vedi? Sì, E dove va? Nulla. E hanno aggiunto anche le tende di vuota con il vento. Perché magari non è ancora bene. A me me l'aveva piegato il tubo, amico, il vento forte, un medio anni fa, quella... Proprio il tubo l'aveva piegato, il tubo l'ha mandato a 5, capito? Tubo d'acqua. Non penso che non mi chiamano, questo, che sei grosso. E a me me l'ha piegato perché ho fatto una cazzata io. Fatto? Ho fatto il buco passante, la cazzata più grande l'ho fatto. E infatti ha piegato proprio lì. Perché ha trovato il punto più debole e praticamente ha piegato. Capito? Tu vedevi un bullone dentro, non piegato. Vabbè, se no piglia le luci, quando le luci... Vabbè, ti sono andate lì che devi essere contagioso. No, tutte piegate, i radiali praticamente si sono anche spezzati. arrivi a 5-6 stanno arrivando. A lui ragazzi. Che su che è, allucinante. Cioè, allora io prendo un americano, cazzo, ma mi hanno fatto 30 mi hanno detto, ma si può. Ma quelli che sanno dove? Tutti i nomi di amplificatori grossi, capito? È per quello che arrivano furti. Sai che anche la mumpa è di fra. Un bel anche. Un bel. Ecco, sto parlando a un metro di distanza, amico. Col microfono. Cazzo, intendi? Figurati un poco. Sembra se la metto vicino aumenta ancora di più. Ma va bene così. È un bel... esce bene, dai. Ma tu li senti a tutti gli americani? Oh, va bene. Tanto arrivi di voci, eh. Ti sto dicendo che uno stamattina, ma ho cazzo quasi una fetta. Arrivano forti. Magari poi non ci sentono. Magari ci sentono, magari lo ricomprendo. Io stazioni forti sono. Ui, andiamo. Perché hanno delle leggi diverse da qua, però sono un chilo quanto sono. Adesso devo buscare un microfono preamplificato da mettere nel Cobra, perché quello che c'è è normale, non spinge niente. Bravo. Già esce, ma non è preamplificata la modulazione. È una modulazione così. Esce in un saluto. La radio normale esce. Se trovate il DND c'è un abisso da questo a quello. Ma un abisso? Dove state usando adesso il superstar? Sempre quello. Non ne ho già parecchi. Va bene. Dai. E l'altro, tu? Non lo stai più usando, il Midland. L'87, non è attaccato ieri. E quello gli esce bene, dai. Ma ti è rimasto l'87 e è superstar, così è. Due portatili. C'era uno che lo stava cercando un portatile a proposito. Chi è che me lo stava cercando? Fanculo, però mi ne ammetto. Uno è portato a torre. Un altro mi ha chiamato, allora. Io ce l'avevo e l'ho venduto. Il mio rimane lì. Ti può fare, quindi va. Potrebbe servire. Sono tratti. Un po' di volte che c'è la radio neanche li usi, capito? Bisogna accendere, se no si rovinano. Va bene, non è che laggiù tre del radio, buh. Gli altri li ho fatti tutti fuori. Cosa ne facevo? Nulla. Cosa ne fai? Avendo un bene, ne tratti sempre uno. Va. E io ho il neuro della Midland piccolino, 40 canali, però è solo AM, senza FM. No, ne ho un altro di baracchino, ne ho, però c'è il garage. E quelli piccoli. E quelli che vendono a Pulsaro, lo Zeus. No, Zodiac. Zeus, Armagnette, Zeus. Non lo conosco, non lo so, ma qual è quello che c'ha lo switcher digitale? Non mi piace di questi apparecchi con lo switcher digitale, anche io ne ho uno qua della Midland che c'ha lo switcher digitale, esce bene, però mi piace più lo switcher analogico. Lo so. Per me, poi non lo so per gli altri. A parte potete dire un go, bravi. Tanto questo è il Cobra. Ma non vuole stare normale. Già funziona. Ma non mi piace. È so strano questa radio. È un po' chitofonica. Ma forse sono in AM o FM, ci avvisi. In AM, sì. In AM, so bene, sto scendo io. No. Forse sono cupo di frequenza, forse. Ora. Ma cosa intende, fra? Ora tu, non ti capisco. Non mi capisci? Aspetta, ti sto centrando, sicuramente ho toccato qualcosa. Ora. Ti capisci? e robe di tempo fu è, muove, capito? Qual è la modulazione? Il microfono. Guarda adesso, Santo, mi senti? Ora. Cosa sei prendi, bravo? Lo c'è qualcosa che non mi inquadra qua. Ma cosa? Perché non va giù, Luca, qualche cosa di Ferrari, che casino, un poco di bussanti, ma raggiù, si va. Trattato dei debuti. Dai. Perché? Radio di merda, proprio. Se non fatemi pagare. Ma non serve a nulla, però. Trovatemi pagare perché non c'è nulla dentro questa radio, ho capito. È un bidone. È bello di bellezza, però non si fa nulla di modulazione. È meglio il Sommer Camp, il 23 canale, c'è una bomba. Il Sommer Camp di quelle antiche. Dicono che quelle vecchie sono migliori. Secondo me sì. La roba è ciò per la roba moderna. Non c'è più nulla di radio moderni. Bah, lasciamo perdere. A parte quelli CB, magari quelli dei cametrici sono diversi. Sono delle diverse radio, ma anche baracchini. Sono dei bidoncini. A me che giù a pagliare il ricordo il microfono, mi sento tanto cogliato, mi sa. Bisogna cambiare il filo. Il filo microfono. Perché con l'andare del tempo ci marciscono quei microfoni di capito i fili. Carità. Ui. Ma per carità. Che ci vuoi fare? Sono diversi, no? Da una all'altra giamba. Ma è superato, fanno ancora? Ma penso di sì. L'avevo visto un giorno, l'avevo trovato. Lo dovrebbero fare ancora. Il superstar, sì. Ma il Natalino l'abbia comprato nuovo. Costano un bel di soldi anche quelli, capito? Ma in definitiva non ne fai nulla. Avevo uno buono io di quelli, proprio, era il modello più vecchio, tanto quanto bombava. Io ne ho uno di quelli, il 3009 della Superstar, però il modello vecchio. Devo scendere in officina a prendermelo. In officina? Ce l'ho in officina giù dopo la prova prima. Ma si è andato a pigliare tiro, e poi cosa va a vincere? Devo scendere a prendermelo, infatti. È dopo nuovo, è il modello vecchio, ma è bello, è una bella radio quella lì. E ce l'avevo all'epoca io. Come mai era lì? Ce l'ho degli anni. Devo fare sempre a pigliarmi. C'è quello, c'è anche il mondo, il... come si chiama? Un Polmar. Il Polmar 23 canali. Sono radio vecchie. Ma qua la piglia più però. Appena che scendo. Come c'è un po' di tempo scendo e me lo porto su. Una coppia di Nivea. No, già è tranquillo. Già toccami. Ma come mai? Dove appare positivo. Ce l'ho su in ufficio sempre. Infatti devo passare l'altro giorno a prendere, vabbè, mi c'è due a capo e me ne sono dimenticato. Prendi, te lo vero, ma tua. E certo che me lo prendo. Ma se non fai domani a pigliare mio, più in basso e mi rubito. Ma fa la famiglia per dar niente. Capo. Me lo prendo sì. E funzionava pure bene perché ce l'avrebbe il furgone. E ci deve essere pure la base magnetica con l'antenna della Sirio. Ancora lì. Via via. E beh, certo che sì. Ma questo è un tempo fermo, non andare manco fermo. E adesso mi di anni fermo. Minimo è 10 anni. No, forse 8 anni, dai. Forse in rovina. Ma così, magari, no, ma così l'ho lasciato che funzionava, Funzionava. Sì, la funziona. Ma non so se è andato, ho messo le palle. IB. Ah? IB c'è un BV131, 80 euro. Nel frattempo che c'è IB, gli esiti tutti duri. Ma l'ha venduto a San Verio? No, lo so, non l'ho più visto né sentito a San Verio. Magari prima ancora. Pensavo che lo stava cambiando con un 747, voleva. Uh-huh. Tutti i gatti con un 747. Faccio una antenna propria, va via, quindi in grande facciata. Sono da molto che non lo sento. Ma guarda, io gli avevo spaccato il culo con quello che me l'ha rotta. Ah, l'antenna, non lo sapevo che gli avevano rotto l'antenna. Perché è salito molto rotto, gli ha facciata. Di tecnico di merda. E io avrebbe fatto pagare. Fatta pagare, la riguardante da culo, sai come l'avrei picchiato, io. Vita, gente di merda, proprio. Ma non c'è faccia per svegliarlo. No, non è così di carico. Io non ricordo già la moto per 5. E anche io. Poi non so se l'aveva smontata o se aveva fatta questa roba. Io che gli avevano rotta. E anche lo stesso, quando sono stato in Baragabi Studio, che non so cucare che l'hai fasciata. Una cazzata di un virus, che sa ne mai. Guarda, frappa, guarda, il maggio io, signore, un gatto che la mia c'è invitato. Ma se lo sai chi è, già vai. Sì, a carità. L'antenna e tutto non si sa manco che l'ha fatto in nero, lo travaglio, pensando le fatture, le niente, cosa andate a fare? Non sa manco che già lo sai, magari. Ma non me l'ha detto, ho capito. E allora non rispondi tu. Infatti glielo ho detto, il giorno che si fanno tornare all'antenna, la gente l'ha fatto pagare a voce direttamente. Cosa dico? Ma io non la giuguipa. Vabbè, io gli sto dicendo, il giorno che rompono l'antenna. O si fa fare la ricella fattura di chi ha fatto il lavoro, così so chi è salito, e rubo su di casa. E se no lei se ne paga le conseguenze. Certo. Ma già lo venga a sapere che è salito su. Allora fa chi non vede Daniele che fuga. Quando rientra Daniele da Torino e lui ha meludizzicare. Prima la mia gran fatto la vedo, io che mi hai facciato un vino, brutto pezzo di idiota. Speriamo non sia la persona che penso io. Un curatore? No, è uno che fa di. Che bello laboratorio era orgoglioso. Speriamo non sia chisso. È andato la mia casa a fare il pedacuro. Fare il pedacuro? Io ho pagato 3 anni di antenna io. A vedere. Guarda quanto arrivano furti questi francesi qua, allucinante so. E hai tengo io. Tu non tengo. Ma magnelli sì, tanto. Già si intende. Sono di matatine. A stuzzicare. Una berretta. Già va bene, già. Ammazzare un tempo. L'unica cosa è già finita, Ti devi una crepulla. Non ne ho. Io la una bottiglia di birra, cosa dura. Ma poi con i patatini ti lavi subito. Sì. Tiago 3-6, 5-6 qua, che per carità. Allora, ascoltando ci sono più di 50 persone. Andiamo bene, andiamo in occhi. Bebe. Troppo bravo, Luca. Luca, ah, sicuramente sta lavorando. E Piero. Magari ci ascoltano. Mi fa la bombetta, e c'è stanno a dare roba di gruppi, farà fuoco artificio. Non pubblico ne ha appena un anno per la bombetta di due. Ci sarà Mario. Forse non c'è questo, un po' di tempo fa, molto forte, l'hai sentito. Non è copiato uno, la di nobi. Arrabbiazzetta, una bomba Maria. Sta carriera. So come. Chi se lo buco ha fatto in terra? Doveva essere un meccanico quella cosa lì. Che bombetta per da piena. Sì. Che cambiamo lui. Sicuramente sì. Io giuro un bicicletta che buca. Un paio di anni fa un amico lo stava accendendo, il manio si è spento, l'ha gettato, l'ha tornato a pigliare, l'ha dato in lì e gli ha copiato in mano, tre lì disoburati. Anche qua quello. Ma non vai tu, l'accendi, lo getti, si spegne a averla pigliato, ma dimmi tu, e poi lo riaccendi. Ma c'è gente pazza che... Cimoniare con le cartine è pericolosissimo. Sì. Sai che la cimone faccio subito l'antimento. Infatti io la tenevo chiuso. Come dire, cimoniare a filiare, è nata che si tiene Minerva. A volte non la tenevo, a volte partia di qui per partire nei diritti. E chi se ne fosse vero, ne batte un braccio. Sì, vabbè, ma c'erano quei bagni un... Non lo so cosa si fanno ancora, ma c'erano gli altri più potenti pure, quelli russi. No, non ero così, no, che ci sono proprio bombe, insomma. E io non avevo venuto a farli. Una bella antenna, sì, tutta comunque stata portata bene. Eh beh, la cosa principale è l'antenna. Però qui in radio che vuoi, faccio una bella antenna, non ne fai nulla. Ma ho visto anche comunque funziona molto bene che la super lenta. Anche quella va bene, sì sì. La via da una, questa è la via che sta sopra, c'è una via non è grande però. È tipo più lunghi di quelli della Matova 5 insomma. Sì, no, ma è fatta così, Lo so, ma dico, ma dici, ricordate che quando come te la pugiasse ti rifascia. E altro tranquillo, mica è peggio la cornacchia. E poi grande sopra come tra dindolarsi il muro. Ma non le faccio così, sì, no. Sì. Quelle la Matova 5 c'è quel radiale in cose, fibra di vetro, già li spacca prima o poi. Quella antenna una volta che le smonti non esce in più, c'è il radiale, si fascia. Ah, grazie, se sono sigillati di me, no, non si fascia, no. Bruno è un cara convinto che cosa, invece ne ha tirati tranquilli. Perché devi vedere, ci è riuscita a lasciarla agire bene e poi piano piano sfidarli, capito? Perché si forma luce tra l'ottone e l'alluminio. Dove? Che non è entrato, manco appena non è entrato di ossido. Ma dove? La Matova di Lucca, è stata sigillata bene. Si è fatta bene, sì. Ma devi sigillarla per i vermi. Perché l'umidità da tutti i parti entra. Vabbè, qua non molto che siamo a Sassari. Tu pensi in zona di mare cosa è? In zona di mare la deve sigillare bene, sennò non anda. C'è un amico che lui vive giù al mare, un camper. Tu devi vedere un camper come ti è, come ti verrà fatto la salsina, tutto glielo sta mangiando, anche il cerchio delle ruote, tutti intaccati di ruggine. Ci credo. Ma non attenzione, non devi fare il tuo campo, non me la fotti nulla, sì. Sai, il tuo bravo paio d'anni devi fare a pezzi che sul campo. Sei tu quattro burro, devi fare la manutenzione. Ah, che non ha gana, fa nulla, chissà. Ho passato la potenza, bene arrivo, sì. Arrivi sempre bene, non c'è problema. Io sto uscendo con 5 watt, sì. 3 watt. Io sono metà fa. Ma se sono in lontananza, sì. Ma a Sassari cosa ne fai? Andiamo bene, andiamo, bubu. Tonino, buonasera, ben scontato, bubu. Già, ciao Antonio. Ho un tabacco per te. Cos'è? I due condizionatori qua, il padrone in casa ha detto, tu lo conosci qualcuno? Sì che lo conosco, per caricare il gas. Vabbè, non c'è problema. Che gas c'è? Cosa? Ho detto che il gas monta, il 404. No, lo so, mi sembra quello nuovo, boh, non lo so. E allora il coso, il 4.10 dovrebbe essere. Uno è il riello. Vabbè, la marca non è importante, il freno devi guardare che tipo di gas. Ma guarda che c'è un'etichetta dove c'è l'unità motori lì, che c'è scritto che tipo di gas è, se è il 4.10 o se è il 4.32 o se è il 134, perché ne fanno di modelli di questo gas. Quello di fuori non lo so, perché c'ho quello sotto la veranda, sì, lo potrei leggere, ma quello dell'altra della cucina no, perché io dovrei entrare nei cortili dell'altra ancora, devo fare tutto il giro, e quindi, capito, non è proprietà mia, devo chiedere il permesso. E tu guarda quello della tua cucina a vedere che gas è. È quello della cucina che non posso guardare, quello del camaletto posso guardare, ho detto, che ce l'ho in veranda, il motore, capito, l'unità esterna, mentre quello della cucina non lo posso guardare. Intanto, visto che non scaldo, non faccio nulla, insomma, vabbè, vieni, lo vedi, ti fai pagare anche il tempo che prendi a controllare. Poi non so perché telecomando, mi faccio a pipì, quando cambiavi temperatura, cosa va, non lo faccio più il pipì. Però è un bello, Tony, così a occhio, non so cosa dirti. Può essere scarico di gas, magari c'è il pressoratore che lo sta chiudendo e non parte l'unità. Può essere il condensatore di spunto, può essere qualunque cosa, però se non lo vedo così a occhio, No, no, non so cosa dirti. Come va questa radio? Va bene? È un bel bombante. Tu quando è che puoi venire fra? Io non lo so, anche domani non c'è problema. Domani finisco prima bene domani mattina. Stamattina devo fare una cosa, una persona. Su invece non stava bene e quindi non sono potuto andare a fare niente. Ecco, domani mattina è ideale, perché sono in casa e lui viene anche di mattina, così ci parlate e venite d'accordo. Dimmi a che ora domani mattina, io scendo e lo vediamo, non c'è problema. Ok Franco, va benissimo, tanto lo devi venire perché devi prendere il contratto, quindi non c'è problema, ok? Va bene, posso scendere anche alle 9, 8:30, 9, se ti va bene. Non c'è problema. Ah, Calenove va benissimo, dai. Cava, cava. Ce lo vediamo cosa c'è. E perché sta arrivando il freddo e a me non mi piace mettermi 3-4 coperte, che a me interessa. Attendo lo scaldamento e ciccia. Beh, sì, E me Antonio. E allora, tutto a posto, eh. Ma non c'è anche Gianni qua. No, non c'è tutto Gianni. Non c'è? È attivo. Ah, quello sta cantando. Oppure sta mangiando la Fenì. Veramente c'è mangia di Raffaele, di tu e me. La posso la Fenì. Ah, tu buona ridere la Fenì. Ma facendo la tanto tu lì? Scappa. Cazzo. Me lo piglia la Fenì per tutto. Siamo a novembre, mio, caro Franco. Qua sei fine novembre. E se non lo fai mai, grande che la fai. Ma tu la fai tu lì? Certo che la faccio anch'io. C'ho tutto... Il menù come si fa? No, la voglio assaggiare come ti la fai, la Fenì. C'ho la taglietta, ma c'è una signora Fenì, mi fa, valla. Beh, bisogna saperla fare. Una volta mi sono venuto, un giorno e decido poi chi, così è. Bisogna saperla fare, sì. E cappa. Innanzitutto quanto fa l'impasto con la farina di ceci, un po' di olio, un po' di sale, eccetera, la dici bella che non ci rimane con gli agrumi, bella mescolare, che so, il fruttino elettrico, e poi devi far riposare 2-3 ore, sennò è inutile che la fai. È vero. Ma Franco è imparito, ora è venuta gente perché mi si sento un rumore strano. Nella fuma, no, che va freddo. Oh, la faccio con le cipolle, con la salsiccia, a me con le cipolle è più buona però. Cosa c'hai tu il coso, quello del forno, non il caminetto, dove la fai? Ah, io c'ho il forno elettrico, metto 200 gradi, 250, quello che voglio. L'ho già fatto altre volte, altri anni a tu, ma buonami. E me ne assaggio un pochettino, poi quando è più fredda, tutta me la già bagnata, vabbè, la taglietta mia ha una circonferenza di 40 cm, non molto a me. Ma ho detto, cosa c'è tu? La taglia data quelle cagnanti, no? Cappa! Dove la trovo? Sto parlando un attimo, un messaggio vocale. Io volevo tagliare la vomita al centro casa. Eccomi qua, sì, la teglia va bagnata con un po' di olio, spennellata, ai fianchi, capito? Io faccio, posso fare fino a fino o un po' grossa, ma a me fino a fino non mi piace, un pochino grosseccia, che è grossoccia che è, almeno. A me mi piace, veramente tanto, pulimare un panino, mi piace troppo. Senta un panino. Scappa, andiamo così così in fretta e vai. No, non mi piace così. Oh, non mi posso mangiare, sai, mi crea un po' di... Sì, ma poi domani quando vai in bagno o ogni ammalloppo? No, e là c'è la gana. Mi sa che, siccome devo fare una commissione, devo uscire e devo andare a un negozio, quindi mi prendo anche la farina di ceci, già che ci sono. E la vendono anche lì a Latte Dolce, dove c'è la CRAI, dove c'è la locomotiva di fronte. Ma vedate io. Cappa, il pacco è trasparente e verde, farina di ceci, ma non pulita tutta, se no tu esci un casino, esci, ci va un tot, capito, 300 grammi. Oh, è un lambo, non capisci un casino, vero? Nel mio forno ci sta la teglia piccola, la teglia grande non ci sta. No, la mia non è molto grande la teglia, capito, già ci sta, tranquillo. Forse di meno di 40, forse 30 la mia. È tonda, vedami. E vabbè, ma c'è una gana a vedere dai, ma c'è una gana a vedere che di mangiarla. Si può fare anche in casa. Scappa, così non ando anch'io a fare la vira, che da, e poi ti diverti pure a farla, capito? Ci metti la cipolla, quello che vuol, salsiccia. Quindi ci vuole più per fare la basà che a cucinarla. Dopo è cara pure, molte volte la giubiliata uno in via nura, ma non era buona. E poi tra l'altro c'è il di zero, non viene nulla, ma mamma come si mettiero dei miglia, una tiglia, a chi viene poco se no, è cara cosa, questa non lo so quanto costa, ma penso sia aumentata. Cosa tu? A panna e ceci non la costa, la tua mamma tu. Una cazzata, non mi ricordo se è meno di 2 euro, un pacco da un chilo. Non me, con esattezza non me lo ricordo tu. Vabbè, ma i negozi che ci fanno a fare nere, ricorda che loro lo comprano a sacchi da 50 kg, eh. Però guarda, che viene anche di meno di quanto la paghi tu. Cosa tu? Che viene anche di meno di quanto la paghi tu. Non mi ricordo con esattezza quanto costa un chilo, capito? Quindi, ma il guadagno ce l'hanno, è un bel pure, perché ce l'hanno. Tu hai fatto un conto. Cosa ha fatto? Cosa costa? 2 euro. Dunque, la maggior parte è tutto guadagno, dai, della Feni. Se fai un giro in conto, l'acqua, un po' di sale, l'urio verrà una cazzata vennata, la fai in cicci col cammogo, è tutto guadagno la maggior parte da tu. Io sto guardando qua, allora 2,19, 2,26, pare la TV, così costa una cazzata. La fai in cicci da un chilo? È un chilo. Non mi ricordo con esattezza quanto costa, allora ho aumentato un po', perché io meno di 2 euro la pagavo l'anno scorso. E vabbè, comunque anche 2 euro si può pigliare, è un chilo. Ma la sei, ti fai 2-3 fornate, amico, un chilo di farina e cicci. Ma quanto guadagna non si può fare? Un bel denaro, un bel. Vabbè, ma devi pensare che loro consumano corrente elettrica. Devi pensare a quell'altro che c'è il forno a legno, con pareggia la legna, in cucca. Vuol dire spese, però il guadagno ce l'ha sempre, se no avviene già serrato. Non preoccuparti che devo più della metà i guadagni di là. E infatti mi dico di santo culinare, cioè chi su apre stagionalmente e poi basta, cioè non l'avrà fatto di là. E beh, tu stai parlando di coso, salpoliare per coso, come si chiama, fanciullo, non me lo metto, fanciullo, sto a puntare la lingua, non me la metto più. Benito. Bravo, Benito, io. Come c'è via Coso, c'è Antonio, dall'altra via, dall'altra parte. A San Donato c'è Antonio con la sorella e l'ha fatto un bel buono. E posso dirti che è una delle migliori che c'è a Sassari, quello di mio San Donato. Sì, è vero. Quello lavorava da Zizzu su benzino me, Antonio. Dai, mi sposto un attimino a tu, dai, ci sentiamo. Ciao ciao. Non ho capito. Che mi sposto un po'. Ho detto ci sentiamo, c'è mai più tardi dentro. Ok, dai. Yeah, ciao ciao. Ciao. Attenzione 10 secondi. Hola, attenzione canale 10, cambio. Hi. Non tuo? Beh, Gianni. Aspetta un attimo. Sì, ya. Stavo accendendo tutta la maratona di cicocco. Accendendo? Le luci notturne stavo mettendo, ecco le luci. Ah. Visto che dalle 5 è già notte. Hai visto il freddo che c'è messo in Puglia? È un po' di freddino, c'è. E un po' esci la sera come ti esce il brugato. E ieri sembrava un po' buon Natale come ero tutto che andasse a cavare. Addirittura. E ti prende anche le mani, infatti stasera lo metti qua. Ti prende anche le mani, c'è il freddo girito tipo quello di neve, freddo di neve. Sì. Cosa stai facendo? Partiti? Tutto. Ma poi Facevo lo smorone. E prima mi facevo tutta la notte, anche fino alle 7 di mattina sono stato tutta la notte e pescavo anche bene. Ma adesso dici che non vedo più nulla, io già da fatto, quindi di là e basta. Ma parecchio sono cercati in abbandonato già, solo a sempre, calamari, non ci vuole esca, non vivo nulla, capito? Ma se si incaglia il pesce pinto, tutto un bel. Ma io la scoglia non ci vado, io ando a sabbia. Non è che mi dici qualche volta andiamo insieme, che hai paura che te ne prenda tutto il pesce? No, sto aspettando che ritorni, che calmi il mare. E io già ce l'ho qualche artificiale, ce l'ho per calamari sì. Ce l'ho quelli rosa, ciò, quelli arancioni, rosa. Sì, quelli lì sono quelli che vanno bene, quelli fucsia. Bisogna averne.